30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Allora, mentre gli astronauti parlano con le loro famiglie, diciamo che si conclude, anche si stempera un po' la tensione, ovviamente, di 2 giorni di volo, una missione appena iniziata ma che già ha vissuto alcuni dei momenti più delicati, quindi quello del lancio, naturalmente, da Baikonur 2 giorni fa. Forse vale la pena ricordare che 350.000 tonnellate di carburante vengono bruciate in 8 minuti, di fatto gli astronauti sono seduti su un'enorme bomba, possiamo assolutamente chiamarla così, e poi questo momento dell'attracco alla Stazione Spaziale Internazionale. Tutto procede per il meglio. Paolo Nespoli, Katie Coleman, l'astronauta americana, il comandante russo Dmitry Kondratiev sono alla stazione, sani e salvi, iniziano questa grande avventura di 6 mesi nello spazio. Come ho detto poco fa, insomma, questa è una puntata particolare di 30 minuti in cronaca dedicata ad una missione che coinvolge un italiano, all'interno di una struttura astronautica europea. E io ringrazio Franco Bonaccina di essere qui a aiutarmi a raccontare questi momenti davvero emozionanti. Franco Bonaccina, portavoce del direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea. Quanti anni in questo settore, Franco? 20 anni circa. 20 sono anni. Stato medagliato con la medaglia di servizio. Ecco, ci tenevo a dirlo perché, insomma, credo che al di là del ruolo, ovviamente, della tua responsabilità, c'è anche questa grande partecipazione e passione per queste vicende umane. Sì, ho avuto la fortuna e il privilegio di vivere molte missioni qui in Russia, lanci a Baikonur, lanci dal Kennedy Space Center in Guyana, anche se non si lanciano esseri umani, comunque sono sempre missioni di Ariane, il lanciatore dell'ESA, molto spettacolari, però in effetti quello che prende di più il cuore e la mente forse sono queste missioni dove ci sono esseri umani, uomini e donne e amici come Paolo, in questo caso è una cosa molto speciale. Ecco, un momento fa il marito di Katie Coleman credo ha fatto sorridere tutti quanti dicendo: beh, Katie, finalmente per i prossimi 6 mesi sapremo dove sei, perché negli ultimi 3 anni ti abbiamo visto passare da un centro di addestramento all'altro, che fosse in Europa, in Russia, negli Stati Uniti, adesso finalmente per i prossimi mesi sei lassù. Anche questa è una misura di cosa significa diventare un astronauta. Sì. Ecco, intanto scusa Franco, questo applauso che in qualche modo, come dire, è un po' il sigillo dell'ingresso del nuovo equipaggio nella stazione spaziale. Prego. Certo, gli astronauti hanno un lavoro molto particolare, molto impegnativo, e hanno sempre le valigie pronte, perché prima di partire per la stazione spaziale o per qualunque altra missione devono fare tantissimo training e si devono spostare un po' dappertutto nel mondo, ma anche in Europa. Per esempio l'Agenzia Spaziale Europea ha il centro di addestramento degli astronauti a Colonia, ed è lì che Paolo ha passato una buona parte del suo training, ed è lì per esempio che adesso stanno facendo il training le 2 nuove reclute che sono state prese come astronauti del futuro. Sono ancora 2 italiani che si aggiungono a Paolo e a Roberto Vittori, che raggiungerà Paolo alla Stazione Spaziale Internazionale tra qualche settimana, insomma, tra qualche mese, diciamo. Tra qualche mese, ecco, citiamoli subito, visto che l'hai fatto: Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano, i nuovi arrivati della squadra, naturalmente una donna, la prima astronauta italiana. Certo. Si sono diplomati astronauti da pochissimo, da pochi giorni hanno la loro laurea, dopo aver fatto il training di base. Il nostro direttore generale appunto ha conferito loro questo titolo assieme alla nostra direttrice del Main Space Flight, che è anche lei italiana, Simonetta Di Pippo, e quindi in questa occasione diciamo c'è stata molto bandiera tricolore che sventolava in quel di Germania. Tra l'altro in quell'occasione, devo dire, mi ha colpito molto positivamente, Samantha Cristoforetti si è presentata dicendo: sono un'astronauta europea di nazionalità italiana. Ecco, la mia scaletta andava altrove, ma seguiamo liberamente anche un po' i nostri pensieri. È un messaggio importante quello di dire: sono un'astronauta italiana ma in una squadra europea, non è banale? Certo, è perché dobbiamo comunque considerare che solamente grazie alla cooperazione internazionale, in particolare l'ESA è il primo esempio di cooperazione internazionale. 18 paesi membri che la costituiscono da soli non sarebbero riusciti ad arrivare dove siamo arrivati, e mettendo insieme le forze, la specializzazione, il savoir-faire di tante nazionalità diverse, siamo riusciti ad arrivare ad essere partner in cooperazione ancora più estesa con la NASA, i giapponesi, con i russi. Insomma, non abbiamo niente da invidiare agli altri. Ecco, a questo proposito, diciamo, ci riporta la missione che stiamo vivendo. Forse vale la pena di ricordare per i nostri ascoltatori che nei 50 anni, di fatto ad aprile si festeggia appunto l'anniversario del primo volo, quello di Gagarin, nell'aprile del 61, sono oltre 500 gli uomini e le donne che sono andati nello spazio, però ci sono andati in maniera molto diversa. Ho una classifica sotto gli occhi che ci ricorda come Sergei Krikalov, peraltro presente questa sera, è stato 803 giorni in orbita in 6 missioni diverse. Poi Valeri Pogliacco, vale la pena di ricordarlo, il dottore, 678 giorni, quasi 500 di seguito, record assoluto. Peggy Wilson, una donna, la prima americana, 380 giorni. Poi c'è Thomas Reiter in questa nostra classifica, il tedesco, record europeo, con 350 giorni. Arriviamo agli italiani. Finora abbiamo un Umberto Guidoni che guida ancora questa così libera classifica con 27 giorni, e poi Roberto Vittori, che hai appena citato, che ripartirà tra poco. Ecco, Paolo Nespoli oggi si prepara giorno dopo giorno a distruggere questo record e di diventare di gran lunga il record man italiano. Come arriva diciamo l'Italia, e perché un italiano in questa squadra? Perché questo onore, che alla fine è solo il terzo europeo che partecipa a una missione di lungo periodo? Sì, diciamo che l'Italia intanto è il terzo contribuente all'Agenzia Spaziale Europea, ma in parallelo ha comunque una peculiarità: esiste una realtà che si chiama Agenzia Spaziale Italiana, che a sua volta si dà tantissimo da fare in ambito nazionale per fare, diciamo, il 50% dei programmi spaziali in maniera autonoma. Quindi grazie a queste capacità e anche alle capacità industriali che ci sono nel nostro paese, siamo ben piazzati a livello internazionale per poterci permettere di mandare, diciamo, abbastanza spesso e volentieri i nostri astronauti in orbita. Paolo ha tantissimo lavoro da fare. Non dimentichiamo una cosa fondamentale: gli astronauti sono alla Stazione Spaziale Internazionale per lavorare, sono sostanzialmente gli occhi, le mani, il cervello di una grandissima comunità di scienziati che hanno affidato a loro tutta una serie di esperimenti che devono essere condotti all'interno della Stazione Spaziale Internazionale, che sostanzialmente è un grande laboratorio in assenza di gravità. Questi esperimenti provengono, esperimenti in tantissime discipline, intanto da scienze della vita, fisiologia, nuove tecnologie, scienze dei fluidi. Questi esperimenti arrivano da tanti centri di ricerca sparsi in tutta Europa, ma Paolo farà in particolare anche una serie di esperimenti per altre agenzie spaziali come la NASA e i giapponesi. Quindi ancora una volta in più la cooperazione internazionale è la carta vincente. 30 minuti in cronaca. Bentornati cari ascoltatori, come avete capito questa è una serata un po' particolare per 30 minuti in cronaca, che trasmette dalla Russia, trasmette da Mosca, dallo ZUP, così si chiama il centro di controllo per l'attività astronautica della Federazione Russa. Dunque la prima fase della missione Magistra si è compiuta, gli astronauti, i cosmonauti anzi, partiti da Baikonur 2 giorni fa hanno raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale. Paolo Nespoli è tra loro, Franco Bonacina che è con noi questa sera ci aiuta appunto a dipanare un po' questa attività che è estremamente complessa, ci parlava del valore dell'attività internazionale. Allora, innanzitutto, qui questa sera si parla russo ma inglese, un inglese che è americano, possiamo dire, in una maniera del tutto naturale. Quanti sono gli esponenti, quanti paesi contribuiscono alla stazione spaziale, in che modo? La Stazione Spaziale Internazionale è una cooperazione di 5 partner sostanzialmente, sono la NASA, la Russia, il Canada, il Giappone e l'Agenzia Spaziale Europea. All'interno dell'Agenzia Spaziale Europea ci sono 10 paesi membri che contribuiscono ai costi di sviluppo della Stazione Spaziale Internazionale, quindi è sotto due aspetti una cooperazione internazionale multipla. La Stazione Spaziale Internazionale è il primo esempio di grande cooperazione multinazionale e diciamo siamo arrivati finalmente da una situazione dove 20 anni fa, quando ho cominciato a lavorare per l'ESA, non si riusciva ancora a capire bene se gli americani e i russi si sarebbero parlati. Noi europei, grazie al fatto che sapevamo già cooperare, a quel tempo eravamo 15 paesi membri, sapevamo già cooperare, siamo stati anche un elemento cardine per facilitare la cooperazione internazionale tra i russi e gli americani. Possiamo vantarci di aver fatto questo tipo di intervento. Insomma, avete lavorato anche sul dialogo. Quanto è diciamo forma e buona educazione, quanto è sostanza in questo rapporto di fatto sempre più stretto tra russi e americani? Basterebbe solo citare la quantità di astronauti americani che volano con le navicelle russe. No, c'è veramente tanta sostanza, non è solo forma. Forse all'inizio può essere chiaramente un rapporto formale, ma poi si sviluppano veramente grossi legami di amicizia e di rispetto reciproco. I russi, gli americani, gli europei hanno saputo riconoscere nei vari partner i valori che li rendono unici, e appunto questa unicità messa insieme da questo mix fantastico che permette oggi di mandare nello spazio astronauti di nazionalità diverse, mantenere un equipaggio di 6 persone in maniera permanente sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ancora una volta, 20 anni fa potevo solamente sognare di una cosa di questo genere. 2 anni fa il destino della Stazione Spaziale Internazionale appariva decisamente incerto. Intanto qui è calato il silenzio, l'evento si è concluso, dunque gli astronauti in realtà cominciano il loro lavoro un po' distanti ora dall'attenzione dei media. Dicevamo, qual è invece oggi il futuro della Stazione Spaziale Internazionale? Beh, il futuro della Stazione Spaziale Internazionale è roseo, anche perché si sono recentemente tutti i partner messi d'accordo sul concetto che la Stazione Spaziale Internazionale deve poter continuare a funzionare almeno fino al 2020. Garantire il funzionamento dell'ISS fino al 2020 vuol dire garantire a una comunità scientifica molto ampia di potersi impegnare a sviluppare tutti questi esperimenti che hanno poi delle ricadute pratiche sulla nostra vita quotidiana. Andiamo sulla Stazione Spaziale Internazionale per fare esperimenti di fisiologia umana, insomma tutti i benefici che poi tornano utili nel nostro quotidiano. La possibilità appunto di mantenere la Stazione Spaziale Internazionale in vita fino al 2020 è stata appunto recentemente confermata da tutti i partner. Proprio qualche giorno fa, 2 giorni fa, noi all'Agenzia Spaziale Europea i nostri paesi membri hanno dato il loro sostegno alla continuazione dei lavori dell'ISS fino al 2020, e speriamo, tecnicamente non ci sono problemi, potrà andare avanti anche fino al 2030, e speriamo di avere poi i fondi sufficienti per continuare fino a quell'epoca. Ecco, qualcuno ha accusato questo progetto, che possiamo dire ha passato i 10 anni scorsi a costruirsi, a realizzare questa struttura formidabile, di non avere, diciamo, degli obiettivi economici. Siamo in tempi di crisi, si cerca di tradurre tutto giustamente anche in termini di risultati. Che cosa può portare questa ricerca in orbita? Beh, questa ricerca in orbita probabilmente non porterà risultati economici immediati, però è anche vero che quando abbiamo cominciato a sviluppare satelliti di telecomunicazioni 30 anni fa, nessuno li voleva, perché tutti si chiedevano a cosa serviranno mai queste macchine infernali. Adesso nessuno può farne a meno. Esatto, e la stessa cosa succederà per appunto le ricadute che gli esperimenti che vengono fatti in assenza di gravità potranno avere sul nostro quotidiano. Basti pensare alle lenti a contatto. Io, portatore di lenti a contatto, ringrazio lo spazio, perché da poco posso permettermi lenti a contatto molto più leggere, molto più permeabili e molto più portabili. Tutto questo tipo di lavori arriva da, per esempio, studi di capillarità in assenza di gravità, e questo è stato permesso solamente grazie al fatto che siamo andati nello spazio e abbiamo fatto questo tipo di studi. Questo è un esempio delle tante cose che sono già ritornate a nostro beneficio. Poi ci vuole chiaramente tempo per far diventare rentabile, come dicono i francesi, questo tipo di attività. Tempo al tempo, però, bisogna prima fare la ricerca, prima di avere la possibilità di produrre in grande quantità i risultati. Il mondo sta cambiando rapidamente, 2 colossi emergono, l'India e la Cina. C'è qualche rapporto appunto, nello sviluppo dell'esplorazione spaziale tra l'Europa e queste potenze? Beh, noi in ESA abbiamo già una buona partecipazione e cooperazione con l'India e con la Cina, soprattutto nel progresso per quanto riguarda la scienza spaziale. Il nostro direttore generale è stato forse uno dei primi fautori di un allargamento della partecipazione alla Stazione Spaziale Internazionale ai cinesi, ne ha parlato in tutta una serie di stanze internazionali, ha perorato la causa nei confronti degli altri partner, tant'è che gli americani, Charles Bolden, il direttore della NASA, ha fatto una visita in Cina abbastanza recentemente e ne è tornato positivamente impressionato. Sicuramente i cinesi sono tanti, quindi possono darci tantissimi buoni esempi, hanno capacità sicuramente di primo piano, e perché non mettere a beneficio di tutti queste capacità e sviluppare ulteriormente il nostro progresso e andare nella cosiddetta fase di esplorazione ancora con un maggior numero di partner. Siamo in conclusione, vorrei chiudere su Paolo Nespoli. Una delle cose che ricordo di queste settimane in cui l'abbiamo seguito nei suoi preparativi di lancio è quando ci ha raccontato noi giornalisti che la sua vera preoccupazione in questa fase è di non fare dei danni a bordo, di non rompere degli oggetti o dei progetti per cui, come dicevi all'inizio, dei ricercatori lavorano da anni. Tu lo conosci molto meglio di me, vorrei chiederti una tua immagine, una tua scatto su Paolo Nespoli. Beh, Paolo è grande e lungo ed ha in effetti questo tipo di preoccupazione, però è senz'altro molto molto controllato, saprà senz'altro di vincolarsi bene in un ambito angusto, ha un'esperienza diciamo anche militare che gli ha permesso di sviluppare questo tipo di capacità, riuscirà senz'altro a lavorare bene a beneficio di tutti in questi 6 mesi. Grazie a Franco Bonacina, grazie a voi, siamo arrivati alla conclusione di questa particolare puntata trasmessa da Mosca. Un saluto a tutti.